anche oggi, ad esempio, oggi, o meglio, stanotte è scomparso un cantante catanese che era bravo, e sicuramente lo avrai conosciuto anche tu, si chiamava Giuseppe Ciuri, il ragazzo dai capelli verdi, che tu magari non hai conosciuto allora, quando lui aveva vinto un canone, allora organizzata dalla RCA allo stadio della Torres. Io parlo dei tempi che furono, quando ancora eravamo giovani, e lui si aveva fatto i capelli verdi, si aveva tinteggiato i capelli in verde. E in quel periodo, diciamo che in campo nazionale qualche apparizione l'ha fatta, però poi in campo regionale ha dato tanto. Devo dire che Giuseppe Ciuri era uno dei più bravi della Sardegna, sia cantando la lingua catanese che la lingua italiana, perlomeno parlando a livello di Sardegna. Io ne ho sentito parlare, ma non lo conosco, dico la verità. Però, per dire, fino ad anticorpi lo stesso stanno facendo successo, stanno andando a Zenit e stanno facendo tutte le puntate, davanti anche quello. E ne abbiamo... Vedi, Pino e gli anticorpi sono una di quelle poche persone che probabilmente hanno trovato un manager che riesce a fargli fare dei spettacoli anche fuori dalla Sardegna e anche delle trasmissioni in TV e anche qualche film ne hanno fatto, però siamo sempre lì. No, diciamo che c'è sempre il problema della città, che è il fatto che uno è sardo, quello è il problema. Il problema che affligge gli artisti o gli sportivi sardi è sempre quello, il discorso di essere sardo, a differenza di altre regioni d'Africa che in Italia riescono a lanciarsi di più, forse hanno più coraggio, io non lo so, forse trovano le persone per la quale hanno la fortuna di lanciarli, non lo so già, perché devo essere sincero, in Sardegna anche se so benissimo che i sardi non apprezzano molto la loro cultura artistica, ma io dico che in Sardegna ci sono dei bravi artisti, sia per il canto che per la commedia teatrale e per altre cose, ma raramente si riesce a sfondare, per così dire. È così anche nello sport, la verità, così anche nello sport. Torto, prendiamo Torto. Il battista italiano che ha battuto addirittura il record di Mennea, però non è sardo, è di sangue sardo, questo sì, ma non è sardo lui. Ecco qual è il problema. E c'è quel punto interrogativo da risolvere, Gianni. Sì, ma già ce ne sono anche cantanti, artisti sardi che hanno fatto successo. Vari Amarini, per dire, quella di Busubi, che come cavolo si chiama, adesso non mi viene il nome. Comunque ce ne sono diverse che hanno fatto successo nella canzone, eccetera, eccetera. E dipende anche sempre dall'agenzia che c'hai, un po' tutto, avere conoscenze, sai, quel mondo lì è un po' marcio, devi avere conoscenze, devi avere, ti devi anche donare il volo. Vanilla Marini è una soubrette che si è messa in evidenza forse per il suo fisico, che ne so, tutto lì, ma chi veramente ha fatto successo fra il canto è sempre stato Andrea Paludi. Andrea Paludi sì, e adesso lo sta facendo Francesco De Muro, anche lui di Porto Torres. Francesco De Muro è un cantante lirico che prima ha cantato per molti anni sia in italiano che in sardo, grande tenore veramente, e oggi è uno dei tenori più apprezzati nel mondo, veramente. Francesco De Muro, un grandissimo artista, e quello ha trovato sicuramente la persona che lo ha potuto mettere bene in carreggiata. Si tratta sempre di trovare le persone, Gianni, che è chiaro che se tu non hai una persona che ti aiuta, fa farsi strada da solo non è facile nella maniera più assoluta. Se tu hai un manager e sei un cantante, tanto per fare un esempio, e da solo non faresti mai niente, è il manager che riesce a trovarti gli spettacoli, le serate, gli incontri, tutto questo è importante, ma da solo qui in Sardegna no. Non troppe persone sono state aiutate a quel livello lì. Sì, in effetti dipende anche da questo, dalle appunti che hai. Ma c'è qualcuno che ha avuto coraggio di andare fuori, molta gente si chissà qua, fa successo magari qua e non si sposta. C'è anche il fatto che chi vuole fare successo deve andare fuori, c'è poco da fare, non deve stare solo nella regione. Sì, ma se non hai l'appoggio di un buon manager non c'è niente da fare, Gianni, non c'è niente da fare, devi avere l'appoggio di un buon manager, se no da solo nessuno ti tiene in considerazione, purtroppo funziona così nel campo dello spettacolo, è un manager che ci vuole. Io mi ricordo in azienda, ad esempio, hanno iniziato quando allora si chiamava il Sole Nero, Il Sole Nero non era altro che un gruppo musicale, di cui tra questi faceva parte anche mio cognato, che suonava la chitarra a basso, aveva vinto qui il concorso con loro, aveva vinto e poi sono andati fuori e chi aveva incontrato? Hanno incontrato Gianni Morandi, ecco. Hanno fatto tutto il giro dell'Europa, hanno fatto serate in tutta l'Europa, a grandi livelli, perché c'era Gianni Morandi, ecco, da lì allora ha incominciato a crescere il discorso Andrea Palodi e soprattutto i fratelli che ci sono, quei fratelli Pugliese, Andrea Pugliese e Antonio Pugliese, che facevano parte di quel gruppo, no? Però la loro fortuna è stata anche che hanno incontrato il paroliere, come si chiama, quel paroliere famoso, no, che scrive le canzoni, che ha scritto canzoni per tutti. Ah, Mogol, ecco, Mogol. Intanto subito questo Mogol gli ha cambiato il nome. Da Il Sole Nero gli ha fatto diventare Il Coro degli Angeli. Io sono tutta la storia, c'era mio cognato in quel gruppo, ti puoi immaginare, non lo conosco, no. Veniva a casa mia, venivano tutti in azienda, e venivano, è venuto Gianni Morandi anche, per dirti, no. E perché a quel punto lì hanno fatto le serate in tutta l'Europa. E poi hanno incominciato, dopo che hanno finito le serate con Gianni Morandi, intanto hanno rilanciato Gianni Morandi, perché era il periodo, perché Gianni Morandi ormai era quasi finito come cantante, da quella tournée si è rilanciato alla grande e Gianni Morandi è ancora oggi sulla cresta dell'onda. Però anche i Tazenda hanno fatto un grande successo, soprattutto nella persona di Andrea Palodi, che Andrea Palodi è stato un grandissimo, intanto perché ha vinto anche a livello nazionale, poi ha partecipato al festival, insomma, diciamo che si sono messi in evidenza, un grande gruppo che si è messo in evidenza veramente. Sì, sì, c'era il Sole Nero, c'erano anche due cibi che suonavano il Sole Nero, sia il batterista e un altro che suonava il Sole Nero. Non so se tu lo sai, ma anche Stefano Principe suonava il Sole Nero. Ma io li ho conosciuti tutti quanti, ripeto, perché venivano qui a casa mia, di fianco a me, e prima ci abitava mio cognato, perché sempre la stessa costruzione, però separata la parte interna e la parte esterna. Io abito all'esterno, cioè nella parte della strada, loro abitavano all'interno, la parte del cortile, per dire, no? E dunque venivano loro, tutti quanti quelli, e venivano sempre, da mio cognato, e io li ho conosciuti tutti, proprio ecco per quale motivo ci sono raccontate tutte queste cose. Anche lo stesso, per dire, non so, grande pittore Sidney Ozai, anche lui era un amico di mio cognato e veniva anche lui. E io ho conosciuto benissimo Sidney Ozai, la moglie e tanti altri amici, capito? Anche lui purtroppo è deceduto, Sidney Ozai, un paio d'anni fa, pazienza, faccia l'anima sua, una grande persona, è un grande artista. Beh sì, no, poi io Andrea Faludi l'ho sempre ammirato, c'ha proprio una voce così melodiosa, guarda, è una cosa che non ho sentito nessun altro cantante, con la voce che c'ha, ma lui era particolare. Andrea Faludi era sicuramente uno dei migliori cantanti italiani, non ci sono dubbi, è uno dei migliori, anzi addirittura io in un'intervista che ho seguito, un cantante italiano, famoso anche, che adesso non mi ricordo il nome, come si chiama, aveva detto che la voce di Andrea Faludi era una delle migliori voci del mondo, addirittura nel suo genere. Per cui sappiamo benissimo, Andrea Faludi è stato un grande cantante, un grandissimo cantante, che ancora oggi da molti salvi è apprezzato, è apprezzatissimo. Ce l'hanno nella memoria, il primo sono io, per dire, no? Io l'ho sempre seguito e so che è stato un grandissimo cantante. E ti dirò di più, tutti dicono che Andrea Faludi è nato a Porto Torres, sbaglio, perché Andrea Faludi è nato a Genova, è vissuto a Porto Torres, perché il padre era genovese, questo sì è vero, perché era uno che lavorava con le navi, insomma, dai. Però mio cognato mi ha sempre detto, no, Andrea sì, ha portato Torres perché è nato e l'hanno portato subito qua, però effettivamente lui è nato a Genova, però i sardi lo considerano, e anch'io lo considero, Andrea Faludi come uomo e personale, nato in Sardegna, cioè a Porto Torres. Ho capito. Sì, Andrea Faludi era un grande amico di mio cognato. Ha detto che era un grande pescatore subacqueo, aveva un fiato allucinante, dice che prendeva certi pesci allucinanti, era bravissimo anche facendo pesca subacquea. Di questo non te lo so dire, perché non ricordo di aver mai parlato con loro, o perlomeno che loro abbiano mai parlato di pesca, eccetera, questo non te lo so dire, però come cantante... E non solamente Andrea Faludi, ma tutto il gruppo era straordinario, a differenza di oggi. C'è rimasto qualcuno, anzi dei vecchi componenti del gruppo, solo due sono rimasti. Uno è Gino Marielli e l'altro è Ginetto, non mi ricordo il cognome, vabbè comunque. Comunque il tastierista, che è quello che adesso ha la barba, è calvo, completamente calvo, e però ha un cespuglio in faccia, uno è quello. E l'altro c'è Gino, che è quello che scrive le canzoni praticamente, anche lui, oltre ad essere un bravo chitarrista, un bravo musicista, è anche un bravo compositore, un bravo poeta, diciamo, perché le canzoni le scrive praticamente tutte lui, non solo per il suo gruppo dei Tazenda, ma anche per altri gruppi. Guarda, non me ne vogliono, ma da quando manca Andrea Faludi in Tazenda sono scesi di molto, come ultimo. Era bravo anche di tui quando cantavo, ma non era mai all'invito di Andrea Faludi. Mancava come cantante Andrea Faludi e c'è poco da fare, si sentiva che mancava lui, dai. Questa voce melodiosa che sembrava che si espandesse nell'aria quando cantava, una cosa, dava una sensazione particolare. Senza dubbio, Andrea era uno di quei cantanti che lui si poteva anche definire cantante senza la musica, perché intanto era tale la sua armonia che riusciva ad incantare le persone anche se non avesse avuto l'accompagnamento musicale. Oggi, ripeto, ce ne sono solo due componenti di quel gruppo lì. Prima invece, quando hanno incominciato, mi sembra che erano sei in tutto, se ricordo bene. passano col tempo poi, ad esempio quando quel Peppe quello di Sentino, che è entrato anche lui poi a cantare dopo Andrea Paroli, è entrato quel Peppe, che non mi ricordo come si chiama, non, sai, sarà bravo, però non mi è piaciuto, la verità, non mi è piaciuto assolutamente, non è riuscito nemmeno minimamente a sostituire Andrea Paroli, cosa quasi impossibile che riescano a sostituire Andrea Paroli, veramente, non ce ne sono qui a quei livelli, assolutamente. Poi ne è entrato un altro, e poi c'è quest'altro che c'è adesso, che per me quello lì è una cornacchia cantando, non è un cantante, non mi piace proprio. A questo punto dico che i Bertas come gruppo sono superiori ai Tazenda. Prima i Tazenda erano di gran lunga superiori ai Bertas, ma adesso i Bertas per me sono di gran lunga superiori ai Tazenda. Perlomeno sono rimasti almeno gli elementi di prima nei Bertas, o quasi, dai. A parte Giuseppe Fiori, che era il batterista, che poi purtroppo adesso è deceduto, a parte Antonio Usai, che era il primissimo batterista dei Bertas, oltre al fatto che era anche un grande portiere di calcio, ma era fortissimo. Però anche quello poi ha incominciato a decadere un po' per il vizio del bicchiere, ma comunque a fare su qui. Break per un controllo? Avanti. K, come mi sentite la modulazione? K, Antonio Pongo da questa parte. Oh, sento tu a trombette, Artù. Io ti sento con le trombe dietro. Come la trombette, guarda a vedere adesso, meglio andato. Adesso sì. K, boh, non lo so perché. Ma com'è la modulazione? Buonasera, Giulio. Ti sento tutto brutto, ti sento. Tutto brutto di modulazione. E anche di basso di segnale, adesso sei Santiago 5, stamattina eri sì, adesso sei 5. Come è brutto, cazzo, ma adesso com'è? 1, 2, 3, prova. È un po' impastata la modulazione, però prima c'avevi le trombette dietro, facevo quando parlavi, adesso non lo sta più facendo. Sì, boh, c'ha la batteria a carica, boh, non lo so. Ti dirò che non sei nemmeno 5, sei anche scarso, 5 scarso. Ma se allora è pranzo, ti ho sentito. Santiago 6, come mai adesso non sei nemmeno 5? Sei quasi 5, ma sei scarso. Il radio stamattina è buono anche, andava bene. Adesso fai proprio boh, non lo so quanto, vedi tu. Mamma mia, peggio che mai adesso, peggio che mai, adesso non si capisce proprio niente. Vabbè, dai. Ah, deve essere la batteria un pochettino scarica sicuramente. Non ho capito niente. Vai Gianni. Di lata che esci bene, anche dopo un'elata, esci bene, con l'altra, anche dopo un'elata mangio così. Vedi 550, io. K, adesso controllo la batteria, vedere com'è, che stato è. Questo qua è il misuratore. Ok, dai, continuate. Ehi, allora. Stavamo dicendo giù. Stavamo dicendo dei Bertas e dei Tazenda, no? Che i Bertas oggi come gruppo sono per me, almeno per me, sono superiori ai Tazenda. Prima i Tazenda non ce n'era per nessuno, ma i Bertas oggi sono superiori ai Tazenda, oggi come oggi. Ma i Bertas non si sentono più, poi io non li ho più sentiti. Prima andavano alla grande. Adesso è un po' di tempo che non li si sente, almeno che vadano in qualche festa, così in piazza, ma non più di tanto. Ma Gigi Cameda perché se n'è andato dai Tazenda? No, non se n'è andato, cioè Gigi è andato Gigi, i due Gigi sono rimasti. Lì è Cameda, basta, non, niente altro, gli altri sono tutti nuovi che però non sono all'altezza, sia come musicisti e anche il cantante non è all'altezza dei Tazenda. I Tazenda hanno cominciato a perdere da quando si sono divisi da Andrea Paroli, si sono divisi e hanno cominciato a perdere. La cosa era una questione di soldi, mi sa, che ho divisi per questo. cosa non lo sappiamo, queste cose si sa. Nascono anche per interessi di denaro, quello è ovvio, no, questo è normale. Però ad esempio quando c'era anche i fratelli Pudi, che quando c'erano i fratelli Pudi che era un gruppo piacevole, un gruppo che andava fortissimo, andava benissimo. Andrea Pudiche e Antonio Pudiche, che poi sono due cantanti, tutti e due, sia l'uno che l'altro, fratelli, che poi tra l'altro hanno sempre considerato, la gente ha considerato, o perlomeno ha avuto più fortuna, è stato avvantaggiato Andrea Pudiche rispetto ad Antonio Pudiche. Io li ho sentiti individualmente cantando e per me Antonio è più bravo di Andrea, poi ognuno ha i suoi gusti e devo essere sincero, mentre invece Andrea Pudiche è quello che fa la cosa, il concerto di Pina, Antia d'Italia, sicuramente te lo ricorderai, no? Perché gli era morta la moglie, purtroppo, e lui ogni tanto organizzava, tutti gli anni organizzava il concerto per Pina. Però come cantante mi piace più il fratello Antonio, però cosa vuoi che ti dica? Lui evidentemente ha avuto più fortuna ed è un pochino avanti ad Antonio, Andrea avanti ad Antonio. Ma Lugabbo no, Lugabbo non è molto indietro, se li dici tu, sono tre, figlio, zio Santo, per carità. Arthur, non stai uscendo, qui non ci arrivi in radio quasi adesso, stai arrivando 4:30, stai arrivando, non vedi arrivando proprio, metti la radio che avevi stamattina. Ma sai che l'attacco là? Ehi, a cosa fai mica? Ma va, dice di no, da 9:10 chi dice di no, ma cosa sta succedendo? Oh, vabbè, comunque, sì, io li conosco, ho visto diversi comuni in Pietra d'Italia, però li ho visti al quadrato, poi non li avevano più finanziati e non li hanno c'erano diversi cantanti che cantavano, diversi gruppi, sì sì, l'ho visto tante volte, al quadrato. Sì, beh certo, io quando facevano il concerto per Pina, che devo dire che era anche un bel concerto, anche perché oltre a quello invitavano anche altri cantanti, anche Gianni Morandi era stato invitato, il figlio anche di Gianni Morandi, perché tra l'altro Gianni Morandi è compare di Fede di Andrea Pugli, che tra l'altro, sicché ci può immaginare, ed è per quello anche che è stato, che lo invitava a Gianni Morandi, ed è qualche volta che è venuto al suo concerto, e devo dire, però ti stavo dicendo, c'è il fratello Antonio, che è quello che faceva la seconda voce del gruppo, ma in realtà per conto mio è più bravo Antonio che Andrea, ecco cosa intendevo io. Sì, è Alan, che cos'è Alan? È il nipote o il figlio di qualcuno di loro? Alan è il figlio di Andrea, cioè il nipote di Antonio. Alan è il figlio di Andrea Pudiche. Però ha tutto un genere musicale molto moderno, sai, quello di Ugi, che non, a me sinceramente non mi piace. Devo dire che non mi piace. Non è all'altezza del padre, ecco, e tantomeno dello zio. Vabbè, cantato l'uomo rane, cantato tante canzoni. Io l'ho visto anche da poco, che c'era una festa a Sacro Cuore, quando è d'estate. C'è una festa a Sacro Cuore che la fanno ogni anno, che questa signora praticamente che gli è morta ogni anno la fa organizzata queste, diciamo, questa festa dedicata al marito e la fa a Sacro Cuore, è una cosa in grande, ci sono tutti gli artisti sardi, vengono da Cagliari, vengono da tutte le parti. Ed è un concerto tipo quello che faceva Andrea Pudiche, c'è un po' di tutto. E niente, ha cantato anche una ragazza di sede a rotelle, ma era bravissima, molto molto brava quella ragazza, che di solito è più difficile cantare da seduti che in piedi. Hola, mi sentite? Dal giorno alla notte, ciao. sciapparato che non ci piace, non esce bene, dico la verità. Un altro apparecchio è che ho messo K, e questo va bene. Questo è di lusso, vero? Questo già va bene, tu, è inutile, buttare via quegli altri, cosa devi fare? Sei già scasso di antenna e mi metti anche un baracchino, lo scadente, dai, lascia stare questo quando devi modulare, perché se no non si capisce niente di quello che dici, esci tutto male, ma male veramente. Oltre al fatto che non c'è segnale, adesso il segnale è sì, come stamattina, e la radio è buona, si va così, va bene, tu. Datemi un attimo che devo andare in bagno. D'accordo, già, vai pure. Capito tu? È utile che stai lì a insistere con questi baracchini di quattro giorni, buttalo via e fagli una croce e mettilo nel cassone della Mondezza, perché tanto non serve quello. O lo aggiusti e lo fai riparare come ti serve, è utile continuare ad insistere. Usa questo, che questo è buono, questo va bene. Anche se il segnale da me arrivi basso, però non è quello che conta il segnale, a me mi interessa la radio, che riesca a capire quello che dici, a differenza dei poc'anzi che è tutto impazzato, tutto quanto messo male. Vai a tu. Non riesco a capire perché sta facendo così. E adesso vediamo cosa fare. O lo uso con qualche altro microfono. Magari il microfono c'è qualcosa. Stracco il gioco. Anche perché il stazionario manco si muove. Adesso che poi ho dovuto fare una modifica. Da quando ho fatto quella modifica non ho avuto più problemi. Ok, no, ma non è questione di stazionario, è questione di radio brucio, che è tutto messo male, no? Non è questione di stazionario o altro, è la radio brucio che è messa male, e non è nemmeno questione di microfono, è proprio la radio che non anda, che fai una croce e buttalo via, e usa sempre questo, almeno ci sentiamo, con l'altro non riusciamo a capire quello che dici, perlomeno io qua non riuscivo a capire quello che dicevi, perché era proprio tutto messo male. Vediamo se è rientrato Gianni, sei rientrato? No, ancora non è rientrato, vai Gian tu. No, ma la radio non c'ha nulla, Giulio, che cosa stiamo dicendo? Purtroppo, non lo so, gli è successo un qualcosa, gli è successo, che devo capire che cosa è, cioè, secondo me è roba, sono problemi di microfono, poi la radio penso che non abbia nulla. No, non è problema di microfono, tu. Può darsi anche che abbia qualche problemino anche il microfono, ma è la radio proprio che non anda, è la radio proprio che non va. Quello che stai usando adesso che radio è? L'Intec, 50 power, sempre il solito. Questo va bene, tu, questo va bene, usa sempre questo, perché questo va bene. La radio io la capisco benissimo, anche se il segnale, ripeto ancora una volta, non è alto, ma quello è tutto un altro discorso. Però la radio è chiara, almeno ti capisco benissimo quello che dici. Cioè, perlomeno in questo periodo che c'è poco rumore di fondo nella frequenza. Se puoi aumentare il rumore, allora può darsi che essendo basso il segnale magari potrei avere anche delle difficoltà. Ma oggi come oggi, è già da alcuni giorni, io ti sento bene, ma quando trasmetti con quello, però, con questo che stai usando adesso? Questo qua è una bomba. Stamattina cazzo mi ha fatto penare, non mi ricordavo di una cosa, non mi ricordavo dove erano i canali, capito? Poi ho guardato un coso su YouTube, meno male che mi ha aiutato. Mi ha tenere premuto il tasto rosso, mi ha tenere premuto. Allora, se è venuto il tasto rosso, accendono, lampeggia, tata e cambia i paesi, cambia. E cambia la cosa, che mi ha fatto uscire di testa stamattina. Evidentemente non ti ricordavi come funzionava. Avanti, chi mi chiamava? Sì, stai uscendo, basso, Santiago 7,5, anche di radio basso, però ti sento abbastanza bene, è chiaro, o lui. sì, non c'è problema. Anche un attimo. Via. Beh, non lo so, Luigi, cosa dirti? Ripeto, io ti sento anche abbastanza chiaro. Il segnale non è certamente il tuo, perché è appena Santiago 7 e mezzo. La radio, per la potenza, ti posso dare 3, 4, non di più, per la potenza. Però per la chiarezza, devo dire, che ti do 5, io ti capisco molto, molto bene. Ti mando avanti Gianni. Ehi, ciao. Luigi, ben sentito e cordialità, e anche per me lo stesso, ti sento un bacio di radio e segnale bacio lo stesso. Probabilmente sta facendo con qualche millibat e c'ha qualche problema o ai finali oppure ai prefinali, chi ne sa. Non so io come sto uscendo, sto proprio provando l'altra stazione base, Giulio, e non so come stia andando, dai, che sono da un po' che non la metto nel giro. D'accordo, lui, faccelo sentire, così ti diamo anche un QRK per questo 121, come hai detto tu. Sì, va bene. Sì Gianni, no, già stai uscendo bene, anzi diciamo che stai uscendo anche abbastanza forte. Non è intellegibile comunque la modulazione come quando usi il 3009 oppure adesso mi sfugge come si chiama, vabbè c'è un po' di eco adesso, probabilmente stai usando il come si chiama? Cosa che me lo metto? Vabbè, dimmelo tu. Il DM1000 con l'Intec 495, dai, sto usando adesso in questo momento. Ah, tu mi stavi dicendo il Magnum o il Galaxy, non so quale vuoi dire, oppure c'è anche il Cobra che sono un po' di tempo che non attacco, ma è quello lì però è più debolino, più deboluccio rimane. Questo qua mi sembra che sia molto bello, perché ho provato ad attaccare 5 secondi dall'an 48, tanto di splatter che prendevo, subito spento e ho attaccato questo, non si sente nulla. Sì, beh certo, no, ma questo esce bene, mi stai arrivando 9+20, solo che la radio c'è un po' di ripetizione, devo essere sincero, io con la ripetizione la eliminerei totalmente, da quel microfono lì, perché praticamente ti pasticcia un pochino, però va bene, anche se non è proprio quella chiarezza, proprio bella scintillante della tua modulazione, perché un pochino sento un pochino di nasino, forse è dovuto al microfono, senz'altro. Non è certamente come il Galaxy, appunto, io intendevo quello, il Galaxy oppure il 3009, quelle sono le due radio, tu che hai una modulazione spettacolare, in tutti e due, perché è tutta la tua modulazione, la tua voce, in poche parole. Mi sentite? Ma sto fuori frequenza. Mi sentite? Avanti Luigi. Allora, questo è l'altro, quello che sto appunto da tenere tanto, che non mi andava in trasmissione, funzionava però non andava in trasmissione, poi poi te l'ho fatto che cosa era. Era un posto finale, rimessi, fatto il lavoro, però non andava mai, però adesso l'ho trovato. Questo è, diciamo, l'ala 21, penso che stia funzionando questo. Sì, questo sì, no, non c'è problema. Questo va bene, lui. Questo è 9,5 di segnali, è la radio 5. Il microfono normale, però è la radio 5. Questo va benissimo. E senti? 4 watt di 4 watt esce questo qua, di quelli piccolini. Microfono gli ho adattato questo che non è il suo, però come ce l'ha attacco a 5 cose, questo ce l'ha e cambia anche nell'altro più grande, dai. il microfono rispetto al barattino è molto grande, però funziona perché c'ha i tasti anche nel microfono per cambiare canale, capito? Questo funziona e va bene anche questo. Sì, sì, sì, questo come radio va bene, non c'è problema. Anche l'altro andava bene il radio, però era bassissimo il segnale e anche il radio era basso. Questo è di gran lunga superiore, 9 più 5 pieni, la radio 5, io ti sento molto molto bene. Va bene, dai, facciamo girare. Antonio, ci sei ancora? Ma com'è adesso? Adesso va bene. Ecco. Ma è bene, ma io non sto facendo. È cupa la radio, però adesso esce almeno, non hai più tappici che lo tocco fa, capito tu? È un po' cupa, sì, però adesso esci, almeno capisco cosa dici. Sì, ma qui da me Santiago 4, ancora più basso di segnale. Si è abbassato ancora il segnale, ha qualche problema quel baracchino lì. Non lo sento neanche. No, ma anche questo Giulio non dava, questo non usciva più, era zero lo stesso e l'ho trovato, ho cambiato un condensatore vicino al modulatore, gli ho cambiato quel condensatore lì, come gli ho cambiato quello ha funzionato questo, perché ho fatto tante prove finali, quattro finali e non era niente, non erano quelli lì. Fatto tutti e due per finale, solo niente da fare. E ho cambiato quel condensatore che era da 470 e 16 volte, quello lì gli ho cambiato. E come gliel'ho cambiato, ho visto che sta funzionando qui. Ho capito, ho cambiato un condensatore elettrolitico da 470 microfarad, 15 volt mi sembra detto, vabbè, anche se lo mette a 25 è uguale, il voltaggio non conta niente, qua qui dipende, certo se poi metti un condensatore da 220 volt non va bene, ma fin quando lo metti a quei voltaggi lì, cioè, se vuole la 12, lo metti anche da 25 volt, va bene lo stesso, quello che conta sono i microfarad, quello che conta. No, va bene lui, va bene, no, non c'è problema, va bene, devo dirti che va bene, dai. E l'altro invece cosa hai fatto? Quello di poco fa cosa hai fatto? Non ricordo neanche accendeva, quello l'ho fatto funzionare, però mi sta facendo, se c'è un problema faceva quello là, non ho fatto nulla ancora, le stesse cose che non mi sta dando fatti, capito? Adesso devo verificare, sai che c'è una specie di per togliere il finale, ma non è il finale, per cui c'è quella gabbietta, bisogna smontare, di saltare sul casino, niente, questo l'altro lo so che fece dall'altro ancora e l'ho piazzato su quello che ho provato prima e anche quello devo vedere qualcosa c'è che non ho fatto di qua che gli impedisce, a volte non è finale ma c'è qualche cosa lì che gli gira intorno che è in perdita, capito? Se no perché sta uscendo pochissimo quello là, però c'è qualcosa in perdita, qua c'è il condensatore e me ne sono ho provato a cambiarlo e ha funzionato, questo ha funzionato, quello ancora non l'ho fatto, però lo farò anche in quello là. Ho capito. Quello che c'è dentro la gabbietta è o è un transistor pilota oppure è un prefinale, in pratica è un prefinale, sicuramente stai uscendo, non ti dà vatti proprio perché magari stai uscendo solamente col prefinale o lui. Ed essendo vicini noi magari riusciamo a sentirti ugualmente, anche se basso, però o perlomeno è in perdita il finale proprio e anziché darti i vatti sui ti sta dando questo io con mezzo watt, un watt, mezzo watt, e sarà per quello che il segnale era così basso. Sarà sicuramente, lo so, dentro quella gabbietta è un po' difficoltoso perché ci vuole un saldatore per disaldarlo, disaldare la gabbietta, insomma è difficile arrivarci, però con un po' di pazienza ci vuole un soldatore che abbia anche un certo vantaggio, se no non riesci ad aprirla la gabbietta lui. Sì, ma qua l'ho fatto Giulio, l'ho fatto l'anno scorso forse, avevo già fatto quel lavoro lì e poi mi sono arreso. L'ho tolto appena quella gabbietta, l'ho scambiato perché ce l'avevo, tutti e due glielo ho cambiati, non ha funzionato lo stesso, adesso quindi l'avevo in mano ieri. E ne avevo due, non altro, è iniziato a smontare, tre ne avevo quasi sei mesi. E ho iniziato a smontare dall'altro, da un altro che mettere il pizzo sull'altro che stavo provando adesso. E niente, poi ho visto che non mi piaceva quel condensatore, poi l'ho controllato, misurato, non mi dava come l'altro, ho provato due, no? e mi dava diversamente. Capito, i valori non mi dava i valori che mi doveva dare, allora ho provato a cambiarlo. Come l'ho cambiato, infatti la lancetta è salita subito e anche trasmetteva, capito? Ed era tutto quel condensatore lì, capito? Sì, ho capito, sicuramente, ma comunque se tu continui ad insistere, invece considerato che hai tutta quella pazienza, prima o poi riesci a trovare anche lì il difetto numero uno, diciamo, perché funzionare funziona, però è basso, ecco, tutto. Ma comunque vedo che ti applichi abbastanza, per cui prima o poi riuscirai a trovare il componente che è un po' in perdita e senz'altro riuscirai a sistemare anche quell'altro. Avanti Gianni. Ehi Gianni, di partenza lui, ma sono grandi quegli apparecchi, quanto sono grandi? Piccolini, sono grandi, descrivimeli. No, è piccolino, è meglio di piccolino, però ho visto giù, che adesso mi ha cambiato colore, era giallo e si è passato a verde, prima era rosso, ogni tanto cambia da solo il colore, ho visto il display, prima era giallo, poi è passato rosso, adesso è passato verde. Strano, perché di solito questo cambiamento di colori significa che sta andando in altre bande, tipo ad esempio banda sotto, banda normale e banda alta, e di solito questi colori si cambiano quando uno cambia banda, non so cosa dirti. Ma dimmi una cosa, ma non sarà per caso il 78 plus, no? Quello che stai dicendo tu che esce basso, l'altro, non questo di adesso, l'altro. Il 100 plus, no, questo, Giulio, ne ho due gemelli di questo qua, uno che è tutto a pizzi, no, questo c'è un puntino vicino dove te lo spetti, tu entri un coso, punta lì e cambia il colore, lo fai rosso, lo fai verde, lo fai giallo, hai capito il colore, c'è capito azzurro, c'è un puntino, e dentro c'è, se apri il coperchio, c'è un puntatino, schiacci col dito, se non vuoi il numero, c'è il frequentimetro, hai capito? E ti dai, io l'ho messo ai numeri, però se vuoi, si può mettere il frequentimetro, poi devi sapere, devi ricordarti la memoria dei canali per il frequentimetro, hai capito? Sì, ho capito, è trasformabile dal canale numero sotto alla frequenza rispettiva ai canali che usi, sì ho capito, no, io ho quello 78 plus che accende tutto quello che vuoi, però c'è un transistor che è andato in avaria, probabilmente è quello, ma io non sto uscendo, per cui non sono mai andato da Fusaro, non sono mai andato e non ho potuto fare niente, se no mi ero un po' azzardato a cercare di sistemarlo, però quel transistor mi risulta proprio in avaria, controllando col tester eccetera, per cui sono più che convinto che sostituendo quel transistor funzionerebbe, anche perché accende tranquillamente il plus Alam Midland 78 plus, che poi è trasformabile anche in 400 canali tramite un ponticello, però quello poco mi interessa. Sì, è così, vabbè, applicati ancora, visto che hai ancora pazienza, io non ho più la pazienza di una volta e di quando ero giovane, per cui non ci provo più di tanto a fare certe cose, anche se alle volte ritengo di riuscire a poterlo fare, però adesso non mi ci metto più, raramente, o lui, vai. se non faccio, Giulio, solamente se questi giorni sono piovendo, non faccio nulla fuori in campagna, non esco, e allora mi dedico a mettere a posto queste cose, dai, faccio il tempo così, capisco, se si è avuto tempo, mi sto a casa, allora per ammazzare il tempo faccio, mi sono messo a rivedere queste cose, no, ho messo, guarda, dai, da avanti ieri ne ho fatto da posto uno, quello vabbè non va del tutto, due sì, tre perfetti e quello che non esce ancora, tre li ho fatti perfetti, li ho messi a posto per bene. Ho capito, e va bene, dai. Piano piano, detto te che hai voglia ancora, io no, io ormai ho la certa età per cui mi stanco subito e poi incomincio a vederti un po' da vicino, cioè non è che non ci vedo, con gli occhiali ci vedo, però dopo un po' mi stanca, ecco, mi stanca, mi viene anche il mal di schiena addirittura, per cui non voglio più, diciamo, adattarmi a fare certe cose, no? Avanti Gianni. Gianni, non ci sei? Gianni è sparito, dai. È sparito dal telefono. Capito, lui? Perciò tu che hai, anche perché tu hai il posto lì, in quel garage, eccetera, che sei indipendente, prendi, chiudi la porta, accendi la luce e puoi fare tutti i lavori, ma io non mi posso mettere qua a casa nell'appartamento e trasformare l'appartamento in laboratorio. Ui, qualche cosettina, sì, mi faccio così, ma proprio a livello di alcuni minuti, ma niente di più, lui. Non più voglia di fare, perché ho fatto tanto di applicazioni elettroniche quando ero più giovane, ma tante, passavo l'intero sabato e l'intera domenica dopo una settimana di lavoro in falegnameria, ero sempre attaccato al saldatore, dalla mattina alla sera, dal sabato e anche la domenica, e per cui ne ho fatto tanto, ma adesso basta, ogni tanto così, qualche piccola saldatura. Certo, se mi devo fare un PL o uno spezzone me lo faccio e basta, però non ho più quella pazienza anche soprattutto di una volta, lui. Oddio, no, io ogni tanto mi rifaccio, ma io nel riparo sono dato a riparare il rifaccio, capite? Quasi tutti mi riesco, questi me li hanno regalati, dico la verità, me l'hanno regalato, due, tre, quattro, cinque, sei addirittura me l'hanno dato i palazzini, capito? Io gliel'ho messo a posto, perché questi c'erano tutti i suoi trasturi sulle cose, gliel'ho sistemate 6 o 7 di baracchini a lui, gliel'ho fatte tutti, non li ho preso tutti, e lui mi ha detto, ma questi tanto non funzionano, so, e me ha dato sì l'altro giorno, quello che era un po' brutto, me ha dato sì, e già, questi sì ne ho messo a posto, e tre, quattro, cinque stanno già, diciamo, stanno funzionando quasi, tranne l'altro, bene. Ok, lui, certo. Sì, beh, se sono rimediabili è giusto che tu le faccia anche. E perché no? No, ma io no. Non ho più quella pazienza e di fare certe cose. Come già ti ho detto un po' anzi, per vari motivi, no? No, intanto perché non ho mai avuto la costanza di organizzarmi qua un banco, che avrei anche il posto, mi potrei farlo su in mansarda, mettere un banco, un tavolino, tutto per conto mio, ma non mi interessa più di tanto, la verità, forse mi è calata un po' la passione per certi lavoretti. Tu pensa che ho la stazione nella camera da letto, tanto per dirtene una, con tutta una mansarda che c'è libera conto mio, che potrei benissimo fare una stazione alla grande anche di su, ma non mi interessa più, non, dopo 48 anni e mezzo di frequenza che ho sulle spalle, figurati, mi sto anche stancando, anche perché non ne vale più la pena, non c'è più nessuno, siamo quattro gatti, anzi due gatti per volta, moduliamo adesso, no? Qualche volta tre, e per cui non lo so fino a che senso ha intanto perdere del tempo e soprattutto spendere dei soldi, perché se fai delle riparazioni devi anche spendere dei soldi, perché ovvio ti occorrono materiali e devi comprarle, tutto lì, lui. Ho titolo, così sì. No, a me già me ne danno a volte sì, che cosa, beh, i tempi sono bruciati, io mi vado con quel pizzi, dai, a volte mi serve un capito condensatore, mi serve un integrato, mi serve anche un pettinato, e li trovo anche su baracchini, capito, li trovo. Si può immaginare, in tre di questi qua c'era il 19-69, che è un finale che è molto cercato per il 48, per il tornado, per che non si trovano più. Oppure in tre di questi c'era messo, questi mi sa che io tutti questi baracchini li avevo portati dalla Monaco e Giancarlo e li avevo messi a posto e forse li aveva un po' aumentati di impatti, perché c'è il finale di 19-89, se non c'è il 20-47. E sicuramente gli aveva tutti, perché gli aveva portato all'epoca, mi fa, mi tempo questi qua da Morale Mediancato, da quello di Amatore, che era quel tipico che si era atterrato. E sicuramente aveva fatto tutti lui quei baracchini lì, capito? E adesso quello dovete da una parte all'altra, si sono così non accendeva, si non funzionava, ma io mi sono messo piano piano già, sono tre item. Uno due sono 600 est, l'altro 500 est, li ho messi a posto, diciamo, là, li ho messi a posto tutti e tre. Sì, beh, certo, sì, beh, fai bene, se te li metti a, se li metti a posto è ciccia. No, io alcuni giorni fa mi sono sistemato la radio stereo che avevo da tanto tempo messo da parte, premesso che di radio ne ho tanti, anche di quelli con il fono sopra, con gli analisti sopra, di quelli valvolari di una volta, io sì, il radio di quelli e di cui tre, anche c'è anche gli analisti sopra. Quelli io li avevo tutti revisionati, tutti messi a posto, tutti puntanti. Ogni tanto ne tolgo uno, lo accendo per vedere se ci stanno rovinando i filtri dell'alimentazione, cioè i condensatori elettrolitici dell'alimentazione. Ho visto che ancora vanno bene, non ronzano, perché va bene così. Però allora avevo un po' di anni in meno, avevo quando ho fatto tutto quei lavori, e pertanto mi ci dedicavo anima e cuore proprio, e con tutte le mie capacità e tutta tutto il mio impegno, e li facevo, ma adesso non più, ormai ho 78 anni, lui problemi di salute ne ho avuto, figurati se io penso adesso più a queste cose, sì, se devo farmi uno filotto, mi devo cambiare un microfono, va bene, ci può anche stare, ma a fare lavori a un certo livello non mi ci metto più, non è più voglia, ecco, no, assolutamente no, nella maniera, anche perché, ripeto, non sono organizzato come l'ho organizzato prima, quando abitavo nell'altra casa, nonostante che la casa era piccola, ero organizzato, avevo il mio spazietto, costruivo, facevo tante cose. Invece qua oggi la casa grande, 200 metri quadrati di casa, una mansarda tutta per conto mio, eppure non ho mai pensato di farmi un angolo proprio personale, per così dire, sia per la stazione che per come piccolo laboratorio per gli UBI, eccetera. Non me ne frega più niente, faccio altre cose, insomma, ecco, e tiro avanti così. Forse vi ha scoraggiato un po' il fatto che la frequenza ormai è quasi deserta, non c'è più nessuno, e per cui andavo solo lì a perdere tempo a fare, basta, tutto finito. Gianni, sei rientrato? Gianni è sparito oppure si è addormentato? Avanti lui. Positivo, dai. E mi sta sempre chiamando mia moglie, si avvicina a vedere cosa vuole. Siccome ho steso la roba, che l'ho stesa tutta giù, ho messo dei fili perché con questa chiusa gli ha fatto dire cosa, oggi il fili si è lavato un po' della partita e mi sta dicendo perché ha problemi anche nelle scale lì da sola, allora mi sta dicendo andare a ritirare questa roba da pure dalla dietro di quel terreno, l'ho steso un coso grande per spenderla oggi. Sì, beh certo, se ha bisogno di una mano è giusto che tu vai a dargli una mano, certo, ci mancherebbe altro. Sì, così. Adesso diciamo che ho iniziato un'altra antenna, un'altra antenna al canale aperto, ho iniziato, però non ti crede che la finisco così da oggi a domani, anche perché mi occorre qualcosina che io ad esempio ho in magazzino, in falegnameria, e potrei andare lì a cercarmela e non avendolo qua quello che mi serve, allora ho iniziato e ho messo da parte tutto, però col tempo, invece considerato che ormai il tempo non mi manca, e tra l'altro non sto uscendo, tutto a causa del virus che c'è in circolazione, sto uscendo pochissimo, e allora intanto mi ci metto e do una mano a completare questa antenna. Avete considerato che ho tutto, ho la canna fresca, ho tutto quello che occorre, però mi manca una cosetta, mi manca, che è pure una fesseria, mi manca addirittura una gaffetta d'angolo, perché ho deciso di fare la bobina e applicare il PL in questa maniera. Va bene, dai, lui se deve andare vai pure, non c'è problema, non ti mettere problema, se deve andare allora me lo dici, ci salutiamo e avremo modo di sentirci in un altro momento, ok? C'era qualcuno che voleva entrare sotto quando vi parlando, comunque mandalo avanti che io scendo un attimino da andare a una mano a mia moglie, al limite se siete ancora qua poi vi prenderò nuovamente giù. Ok, d'accordo, ciao lui, alle prossime, dai, attendi pure, che la famiglia è più importante sicuramente del baracchino, non ci sono dubbi, anzi diciamo che davanti a ogni cosa. ciao lui, alle prossime. Chi è che voleva entrare avanti? Vabbè, non c'è nessuno. Vabbè, dai. Claudio, ci sei in ascolto? Che vergogna la frequenza come morta. Vabbè. Questi anziani si lamentano sempre. Giulio. Attento Giulio, ci sei. Ciao Gianni. E Giulio è andato via. Ciao Gianfra. No, stavo provando un apparecchio che devo vendere e praticamente prima di venderlo lo volevo provare, capito? Beh, questo sta funzionando. No, mi sembra che vada bene, ecco. Vediamo un po' se è rientrato Giulio. Stavo lamentando che non c'era nessuno, forse è andato via Giulio, e si scusa. No, è che io mi sono messo a controllare quell'apparecchio e praticamente c'è l'up-down, sicuramente c'è qualcosa nello spinotto del microfono perché toccandolo cambia i canali da solo, capito? Quale? Che apparecchio è? È il Midland Alan 48 Plus. Ah, roba vecchia, sì. No, non è vecchia. È nuovissimo, vabbè, poi comandate anche la roba. È stata solo in mano mia, io non ne compro roba seconda mano, è difficile, capito? Tranne quell'apparecchio che mi ha più di un filetto, li ho comprati lui. Vecchio nel senso di modello, un modello vecchio. Ah no, obsoleto stai dicendo, vabbè, anche la 48 normale come modello è vecchio, però sta sempre andando. Questo qui era il modello digitale della 48, capito? Sì, ma anche lì le schede sono queste, sono trattate in sera. Anche quello del Pluto lo stesso, tutto uguale. Eppure non capisco perché cambia i canali da solo, lo sai. Come li tocchi il filo vicino allo spinotto e si rimette in sesto. È una cosa allucinante. Eppure il microfono della casa, non è che te l'ho fatto io, né niente. Bisogna controllarlo e basta, dai, ma dipende, lo controllo perché sennò poi magari se fa il difetto a chi lo vende per rompere scarpe. Guarda, devi fare le cose. Prima attentarti che il disturbo lo faccia anche senza microfono. Se attacchi il microfono, muovi la presa e non lo fa, allora riprende dal microfono. C'è poco da scappare, dai, lockdown, qualche filo, anche piccolino, basta o niente che stia passando e ti fa lo stesso. Se invece lo fa anche senza microfono, allora è la parte interna, vuoi smontare il fontanino e guardare nel dettaglio la questione, perché è qualcosa che tocca proprio sullo spinotto. Se mi dà un secondo lo faccio, dai, secondo solo, devo attaccare due spinotti. Vai, vai. Giulio, allora, ti sei già reso? Già, fra, è così, dai. È lo spinotto. senza spinotto gira per i canali. No, allora dunque, è lo spinotto del microfono o la presa dall'apparecchio? Cosa? Allora, ripeto, è la presa dell'apparecchio, quindi il cellophane senza microfono, oppure è il connettore del microfono che quando lo inserisci se ne va per complessivo. È il connettore, Gianfra, qualcosa che tocca, adesso lo vedo, lo aprirò e lo vedo, di validarlo, perché funziona perfettamente, conservato che funzionava, adesso sta facendo questo problema, non capisco il perché, vabbè. Magari tirandolo, muovendolo, che ne so. Il microfono funziona perfettamente, solo che probabilmente tocca qualche filo, dai. Guarda, ti l'ha fatto il movimento, può essere o la prima o la seconda estremità del microfono, ora ho dentro il microfono proprio, perché stavo facendo questa gomma oramai che flette male, quindi anche con il connettore emergente. Un po' all'interno anche, magari residente del fatto che premi il pulsante, qualcosa si è piantato. No, Gianfra, è dallo spinotto, perché come muovi il filo che c'è proprio vicino allo spinotto, come lo muovi cambi i canali, capito? Ma hai di quelli che si possono aprire o quelli prefissati? No, si può aprire tranquillamente, di quelli che vendono, e di quelli normali, di quelli che vendono da fusare, eccetera, eccetera, di quelli che hanno le tre vittine, di cui una è piccolissima, che si perde sempre. Quella... Sì, assolutamente, sono fatte apposta. Se non si perde vuol dire che non funziona il microfono. Dici che cavolo dico, ma cosa mi ricordo che avevamo fatti a vite, però si svizzavano e quindi era un cavolo piccolo. Guarda che può darsi che per qualsiasi motivo abbiamo contatto a massa, e quindi quando si muove tocca la massa. Se dentro tutti i microfoni c'è una coroncina in plastica proprio per evitare quel problema. Però non è detto che tirando il microfono, perché magari quelle due viti un po' più lunghette non tengono bene il cavo, che siano allungate e niente. Una cosa me l'ha capitato uno, che c'era un filetto finissimo, proprio quasi invisibile, che si è toccato. Quindi stai bene attento, tanto dallo schema lo vedi qual è lo shutdown, e magari c'è proprio questo filo, qualche, oppure quello rimasto e sta andando a toccare dopo non deve. Gianfra, comunque io il problema delle vitine piccole che si perdono l'ho risolto, ho passato il cacciavite su una calamita e le calamito praticamente, le faccio entrare il cacciavite dentro, le accompagno col cacciavite e non mi scappano più. Sì, quello è vero, ma il fatto è che quando le appoggi da qualche parte se ne scappano da fuori. No, le appoggio sempre in parte dove si vede. Io le metto sempre, guarda, le viti le metto sempre nel tappo, presente lo spray per contatti, il tappo, quello lì lo uso come contenitore per le viti, le metto dentro così non le perdo. Ho detto sempre che stavo pensando sempre per fare quelle cose, quindi passare lì. Mi preoccupa un po' il fatto che il video ha chiuso così velocemente. Non l'ho mai fatta la luce. L'hanno chiamato il tuo video, che sì. Se non c'è andato in qualche altro canale, aspetta che magari ha visto che c'è gente in altri canali, c'è andato lì. Bravo. Vabbè, dalle un colpo di martello qua, un colpo di martello là e si senti. Ma ce ne vuole martello qua. Ci vuole solo cacciavite e saldatore, basta, tutto lì. E col cacciavite in mano Gianni fa miracoli. Vabbè, una bella tappanata qua, una lana la puoi dare. Giusto voi per giusto. Non ho capito. Una bella trappanata, una trappanata a destra e a sinistra. Di vecchia hai trappanato, di vecchia. Ma come è stato questo tempo, non si decide. Sembra che da... non stavo a fare, proprio. È deciso se fare tempo brutto, però c'è il vento, eh. Sì, c'è il vento, sì. Devo provare la scatola. andare a caccia in una scatola, a caso vado a avere l'originale di questo affare che devo, che sto prendendo. Sa che cavolo, per questo davvero ho preso una pomellata. Minchia. Questo c'è un bel peso, mi fa anche imballato bene, non ne arrivano dubbi di questo affare. Che apparato stai vendendo, Gian? È uno bello, mi dispiace darlo, però è troppo grande, oramai la stazione deve essere rinnovata. È un ricevitore MC-79 dalla ISO, con uno stupendo, improbabile. Guarda, solo guardarlo viene voglia di tenerlo, ma ripeto, non mi ci sta. C'è uno smitter analogico che è una favola, guarda, è bellissimo. Ci credo. E facciamo da ricevitore. Sì, questa classe 4. C'è anche quello che trasmette, che sarebbe il coso là, quello sull'America, è come America. Però questo ricevitore è superiore, capito? È uno scatolone bello grande, quando senti la banda laterale, eccetera, senti delle modulazioni proprio aperte, come se non sembra neanche banda laterale, sono proprio spettacolari. È alla perfezione proprio nelle... Sì, ho capito. Vabbè, già fra, se lo devi vendere, per migliorarti già va bene. Il caso per avere spazi, ne prendo uno piccolino, perché piccolino per modo di dire, piccolino nel senso che è più leggero, più maneggevole, e così guadagno un pochino di spazio, anche perché l'occasione è per far fuori altri apparati, perché... Grazie a Maria Globe ne accettano più di uno, capito? Loro dicono più ne hai da mandarti è migliore. Ma questo li guardano subito. Ah, Maria Globe te lo sta prendendo, ho capito. Vabbè, ma fate anche scambi così. Beh, no, scambi... Scambi nel senso fermo se si chiamano, dai. Io vedo... Adesso ancora non ho... Non hanno, volevo mandare le mail per ricevere il preventivo. Poi mando un paio di apparati, poi mi mandano la quotazione e il totale magari che rimane per il nuovo apparecchio. Ho già dato un coso lì, un altro icon, poi non mi ricordo più il nome, ma anche quello bellissimo, va molto bene, era lì, lì, lì 7 o 9 settembre, vabbè, comunque era quello HS che andava anche VHS, eccellente apparecchio, veramente buono, però anche quello era grande, ormai gli apparati stanno respingendo di vecchio, a parte questo ricevitore che devo dare, mi rimane solo il PS2000 che però che ricordo, capito? È stato uno dei primi miei apparati con la banda laterale in VHS. Poi l'avevo anche revisionato, ma l'avevo fatto nuovo, si può dire. E quindi, sai come, ci sono un po' affezionato, anche se non lo uso, in realtà è proprio sento del tutto. È l'unico apparecchio più vecchio che rimane in stazione. Ma mi sa che ne stai usando poco di questi apparecchi, così è già fratello più 27. No, non è detto, perché quando magari sono qua sono anche in ascolto là, oppure sono in digitale che non c'è bisogno di ascolti, ma devo solo guardare. Un attimino lo chiamano. Ah, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione, canale 10.